Braveheart, Wallace. Tu dici perché quel film? Perché comunque sia ti fa notare che il fatto di essere magari anche numericamente inferiore agli altri, però con delle strategie dell'organizzazione puoi fare qualcosa di incredibile. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in via Isidoro, in centro di Montevarchi. Come sempre ringraziando Stefano Neri che ci concede questi spazi. Fumino, stasera è anche un po' un'emozione avere un ospite tanto importante per la storia dei colori rosso-blu, no? È proprio così, Julian, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World anche da parte mia. E l'ospite di stasera è un ospite dal mio punto di vista anche un po' difficile da introdurre, perché diciamo che è stato il protagonista di uno dei racconti che più volte sono emersi durante le nostre registrazioni dei podcast, e per me personalmente, che ero presente durante quel mitico 14 maggio del 95 allo stadio Brilliperi, aver sostenuto quella squadra, e quindi ho qui davanti a me uno dei miei beniamini assoluti per quanto riguarda il Montevarchi Calcio. Ma bando alle ciance, andiamo a presentare e a ringraziare per essere intervenuto ai nostri microfoni Antonio Arcadio. Grazie a voi e buonasera. Bene Antonio, prima di farti la prima domanda voglio ringraziare anche il nostro regista, che questa sera per l'occasione è Mel Gibson. E la prima domanda che ti devo fare riguarda proprio la partita, cioè avanti di iniziare a introdurre la tua carriera, di guardare alle più volte che sei tornato a Montevarchi, quella famosa sfida Montevarchi-Sandonà, il tuo gol del 4-2 che in una delle puntate precedenti a questa abbiamo descritto come uno dei gol rappresentativi della montevarchinità, almeno per me. Noi ci prefiggiamo di ricercare questa montevarchinità, cioè l'attaccamento della città, degli sportivi per la città attraverso la squadra, attraverso il Montevarchi Calcio, e quella tua rete incredibile con quella corsa pazzesca arrivando fino alla porta, che fu il suggello di una rimonta pazzesca. Io personalmente la vedo come una delle reti più belle della storia del Montevarchi, almeno quelle che io ho visto più o meno dal vivo o riprese in televisione. Raccontacela, Antonio. È stata una partita che ha dell'incredibile, dello straordinario. Essere sotto di 2-1 fino all'87esimo, sembrava quasi che le sorti di quella partita dicevano che il Sandonà doveva essere la squadra che andava in C1. Invece poi all'88esimo ci fu il 2-2 del nostro capitano Beppe Scattini. E da lì, non lo so, ci fu talmente un carico di energia, di adrenalina dentro di noi, che ci diede un quel qualcosa in più per crederci fino in fondo. E infatti poi al 90esimo ci fu il 3-2 di Manolo Ermini. Devo dire che poi ci fu un'apoteosi vera e propria, perché ci fu un'invasione di campo, la gente che quasi quasi non ci credeva, no? Che comunque sia la partita aveva preso una strada diversa da quella che era magari fino a pochi minuti fa. E poi ci fu il gol del 4-2, una galoppata di penso 50 metri, e niente, poi quando arrivai lì davanti al portiere con una certa freddezza mise la palla all'angolino, e ci fu il 4-2 diciamo definitivo che ci consentì di vincere quella partita e scavalcare il Sandonà. Poi al di là di quella partita c'erano ancora altri 90 minuti da giocare contro il Baracca Lugo, sicuramente 90 minuti intensi, difficili, che comunque sia siamo stati bravi a sapere interpretare anche quella partita, quegli ultimi 90 minuti che poi ci diedero la gioia di conquistare la promozione C1. Sicuramente è stato un cammino, un percorso fin dall'inizio pieno di sacrificio, di impegno, fin dal ritiro con l'allenatore Piero Braglia, e diciamo che poi alla fine siamo stati bravi a creare un gruppo affiatato, un gruppo che comunque sia era propenso al lavoro, al sacrificio, e i risultati sono visti. Nella tua carriera hai indossato la maglia di tantissime squadre, squadre anche rivali, ad esempio ci dicevi prima Barletta e Andria, oppure l'altro esempio che ci hai fatto prima adesso mi sfugge, Ternana e Perugia, ecco. Però al di là del fuoco che ci può essere magari giocando determinati derby, giocando in determinati stadi, mi aggancio per rimanere in tema di quella stagione epica che si concluse, come dicevi, a Baracca Lugo, anzi a Lugo di Romagna, contro il Baracca Lugo. Bene, cosa provavate, o te cosa provasti, a 10 minuti dalla fine più o meno, quando praticamente la metà dei 3.000 montevarchini che erano intervenuti a Lugo di Romagna invasero il campo e si assieparono lungo tutto il perimetro del terreno di gioco, quasi a minacciare: se qui qualcosa va storto ci pensiamo noi. Cosa pensavi in quel momento? In quel momento comunque sia c'è un mix di emozioni incredibili. Vedere comunque sia tanta gente che ti sostiene, ti incita, ti incoraggia, è qualcosa di incredibile, che ti dà proprio tanta energia, ti dà tanta carica. Ma al di là del vedere tutta la gente intorno al campo, più che altro sai che in quei 90 minuti ti giochi qualcosa di fantastico, di immenso, che è il vincere un campionato. Quindi diciamo che sia questa carica che la carica poi di tutti i tifosi che ti sostenevano e ti citavano ti hanno permesso comunque sia di conquistare questa promozione, di fare un cammino straordinario. Poi si sa che comunque sia i tifosi del Montevarchi sono dei tifosi passionali, calorosi, e quindi questo a noi ci ha permesso di fare quel percorso magico e straordinario che si è conclusa con la promozione C1. Andando indietro di un po', di 2 anni, ovvero la prima volta in cui arrivasti a Montevarchi dal Napoli per una stagione, sei stato a Montevarchi nella stagione 92-93 con Rino Lavezzini allenatore. Tu che venivi da Taranto, comunque dal sud Italia, e quindi era la tua prima esperienza, diciamo, in un'altra regione o comunque in un altro tipo di mondo sostanzialmente, come è stato il tuo ambientamento a Montevarchi il primissimo anno, quando alla fine eri uno più o meno sconosciuto, eri un giovane, ma i montevarchini come ti accolsero, come te li ricordi, e la dirigenza di allora, ad esempio Vasco Farolfi, Lezio Losi, questi grandi mitici presidenti ricordati tantissimo e con tanto affetto dai montevarchini, come ti ricordi quel passaggio lì della tua vita? Venivo dalle giovanili del Napoli, devo dire che il Montevarchi è stato per me la prima esperienza tra i professionisti, quindi già per questo devo dire mille grazie sia ai due presidenti mitici come Farolfi e Losi per avermi portato a Montevarchi insieme al direttore sportivo Giuliano Sili. Diciamo che l'accoglienza è stata un'accoglienza ottimale per me, perché mi hanno fatto sentire subito a casa, mi hanno fatto sentire importante, e questo vuol dire tanto, perché accresce in te sia l'autostima che la fiducia. E niente, poi ho trovato anche dei compagni di squadra dove mi hanno aiutato tantissimo, ne cito 2 o 3 in particolare: Boggio, Cerasa, Ceccotti, che comunque sia a noi giovani ci hanno aiutato tanto a crescere, a maturare, e di conseguenza diciamo che è stato più facile l'impatto col mondo dei professionisti, anche perché fino allora avevo calcato solo i campi del settore giovanile. e invece a seguire poi hai calcato campi importanti, sei arrivato in Serie B, hai giocato in Serie A, però a Montevarchi sei tornato a differenti riprese, sei tornato qui in C2 e poi alla fine sei tornato anche come allenatore negli ultimi anni, nei primi anni della rinascita, vincendo anche un campionato. Alla luce di questo, cosa rappresenta per te Montevarchi? Cioè il sentimento che te hai per Montevarchi, perché comunque è, non voglio dire una costante, però un qualcosa che ritorna nell'arco della tua carriera professionistica, sia da giocatore che l'avvio anche della tua carriera da allenatore, o più o meno l'avvio, ora non so esattamente certo, se era la prima esperienza. Sì, sì, era la prima, era anche la prima esperienza come allenatore. Cosa c'è? C'è il fatto che comunque sia questa società, magari con presidenti diversi, con dirigenti diversi, comunque sia, mi ha dato sempre e comunque la possibilità, sia da giocatore sia da allenatore, di far parte dei loro progetti, di far parte magari di un percorso. Quindi io devo essere grato a Montevarchi avermi dato la possibilità di iniziare la mia carriera tra professionisti e poi anche come allenatore, anche perché è vero che eravamo in seconda categoria, però penso che una realtà come Montevarchi anche in seconda categoria è qualcosa di importante, e nonostante tutto diciamo che sia da giocatore che da allenatore ho avuto la doppia soddisfazione di vincere dei campionati. Quindi questo penso che per me rappresenti un qualcosa di importante. Poi, ripeto, vincere dei campionati non è per niente semplice, facile, anzi c'è tanto, tanto, tanto lavoro dietro per poter arrivare poi a raggiungere determinati obiettivi e traguardi. Tra l'altro è una cosa che abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, quanto probabilmente complicato fosse vincere quel campionato di seconda categoria, perché comunque Montevarchi ripartiva da una categoria considerata bassa, il pubblico aveva tante aspettative, dava per scontato una promozione, e nello sport di scontato non c'è mai niente probabilmente. Certo. In ogni caso ti volevo chiedere, te hai vissuto a Montevarchi la soddisfazione di vincere un campionato e di una promozione, quindi da giocatore, da allenatore, però sei anche stato protagonista di una retrocessione, e quindi qual è la differenza di percezione per te giocatore rispetto al deludere il pubblico in una circostanza del genere piuttosto che averlo esaltato in due differenti occasioni, in due momenti diversi? Una retrocessione è qualcosa che comunque sia ti segna, perché non ti senti comunque sia di aver dato totalmente quella carica, quell'energia per far sì che poi magari le cose, le situazioni andassero in maniera diversa. Però ripeto, molte volte magari si fa presto a condannare, si fa presto magari a criticare, però anche noi addetti ai lavori, quando incappi in una retrocessione, comunque sia, questa è un qualcosa che penalizza prima noi giocatori, per il semplice fatto che comunque sia non siamo stati in grado di poter rendere al meglio, al massimo, e di conseguenza anche la società viene penalizzata. Capisco il tifoso o i tifosi che in quei momenti magari hanno rabbia, delusione, però anche noi addetti ai lavori posso garantirvi che c'è tanta tanta amarezza e tanta tanta delusione per non aver consentito magari a una società che ha investito su noi giocatori a far sì che le cose andavano in maniera diversa. Quindi ti senti quasi deluso per un percorso che magari non ha portato i frutti sperati. La tua carriera da allenatore, che è cominciata a Montevarchi, cosa ti ha permesso di dare ai calciatori di una categoria dilettantistica, praticamente la più bassa categoria dilettantistica, perché la seconda è seconda solo, la terza, insomma, sì, ecco. Vabbè. Quindi cosa ha permesso di dare a questi ragazzi che tu seguivi, che tu allenavi durante quella stagione a Montevarchi, della tua esperienza invece accumulata sui campi anche di Serie A da calciatore? Gli ho sempre cercato di trasmettere cosa vuol dire giocare nel Montevarchi e giocare per il Montevarchi. Questa è la prima cosa che ho cercato di trasmettere e di fargli capire, anche perché, con tutto rispetto magari per tutte le altre squadre che c'erano in quel girone, essere il Montevarchi e rappresentare il Montevarchi è qualcosa sicuramente di diverso. E io ho cercato di fargli comprendere questo ai miei giocatori. E poi sicuramente non fargli sentire le troppe pressioni che una piazza come Montevarchi dà. Perché ci sono tante aspettative, perché comunque sia, se il Montevarchi ogni partita la devi vincere, anzi stravincere, alla fine penso che cercare di isolare i giocatori da tutte queste pressioni, da tutte queste aspettative, sia stata una delle cose fondamentali, anche perché poi dovevano scendere in campo sì con l'obiettivo di conquistare la vittoria, con l'obiettivo di conquistare 3 punti, ma giocando con una certa serenità, perché poi alla fine, voglio dire, il calcio è un gioco e devi cercare sempre di metterci il massimo impegno per far sì che poi magari alla fine ottieni e conquisti una vittoria, perché tanto poi alla fine quello che sia a me che a loro, quello che interessava maggiormente era vincere la partita per poi eventualmente raggiungere l'obiettivo della vittoria del campionato. Si dice che per quanti calciatori arrivino a calcare i campi di Serie A, tecnicamente ce ne sarebbero almeno altrettanti in grado di giocare in Serie A per le qualità tecniche, ma che la differenza a quel punto della carriera di un calciatore la fa la testa, quindi quanto mentalmente un calciatore riesce a stare concentrato, riesce a prepararsi, riesce probabilmente ad isolarsi rispetto a tutto il resto, perché noi parliamo di Montevarchi e dei 2, 3, 4 mila spettatori che c'erano in Serie C, ma insomma in campi dove ce ne sono 60, 70, 80 mila la cosa è molto più amplificata. E questo aspetto mentale è, secondo te, vero che è così importante? E se lo è stato quando hai giocato ad esempio in Serie A, quanto lo è stato per la tua esperienza di allenatore in seconda categoria, appunto, con quella squadra? Ti posso dire che la testa è tutto, indipendentemente dalle capacità tecniche, dalle capacità fisiche, dal fatto che comunque sia può essere bravo anche da un punto di vista tattico, perché sei in grado magari di svolgere appieno i compiti e le indicazioni che ti dà l'allenatore, però posso dirti che la testa è tutto, anche perché diciamo che è colei che ti guida, no? Che ti guida e quindi ti dà quel qualcosa di stabilità per far sì che poi te alla fine cerchi comunque sia di arrivare a quelli che sono i tuoi obiettivi. Ho sentito tante volte dire che la testa in un giocatore è tanto, ti posso dire che è la pura verità, perché avere un equilibrio, una stabilità mentale di un certo spessore proprio a te, come non solo come sportivo, ma proprio come persona, ti può dare quelle garanzie per poter arrivare davvero in alto. Tutti quanti noi abbiamo capacità immense, infinite, straordinarie, però poi alla fine quello che fa la differenza tra un soggetto e un altro è il modo di pensare, è il modo di agire, è il modo di muoversi, e quindi queste componenti qui alla fine fanno la differenza, perché molto spesso non è questione di fortuna o di sfortuna, ma bensì è il modo in cui te in base alle situazioni, gli eventi, cerchi di dare magari le tue interpretazioni, perché si sa, la vita ti può mettere davanti a delle gioie, davanti a delle soddisfazioni, ti può mettere però anche davanti magari a situazioni difficili e quant'altro. E lì, secondo me, chi ha un aspetto mentale forte ti consente poi di superare le avversità, gli ostacoli, le difficoltà, per far sì che poi ti proietti in un percorso eventualmente straordinario, perché la vita non è fatta solo di cose facili, è fatta di ambedue le cose, di cose facili, cose difficili. E colui che è bravo a saper superare i momenti difficili, i momenti duri, poi magari può avere la meglio in tutto quello che può essere il suo cammino, il suo percorso. Ed effettivamente mi viene da dire, un campionato per una squadra, ma anche una carriera lunga e variegata come la tua, una metafora quasi perfetta per descrivere la vita di una persona e le sue montagne russe, i suoi alti e i suoi bassi. Però te, quando hai iniziato a scegliere il calcio con passione, pensavi, o comunque che prospettive ti davi quando eri nel settore giovanile del Napoli, e poi magari, anzi, quando sei arrivato qui a Montevarchi il primo anno, ti immaginavi oppure puntavi a poter arrivare un giorno nella massima serie? E come hai lavorato però, anche da un punto di vista mentale, ma proprio a 360 gradi, per raggiungere questo obiettivo? Diciamo che ha toccato un tasto fondamentale, che è quello dell'immaginazione. È normale che uno sogna fin da bambino ad occhi aperti, quindi diciamo immagina un giorno magari di poter calcare campi importanti, di poter realizzare un sogno, e quindi quello lo fai attraverso proprio l'immaginazione, che è un qualcosa in quel momento di irreale, no? E poi magari attraverso, diciamo, il lavorare su te stesso, attraverso comunque sia il fatto di giocare e divertirsi, il fatto di curare fin da ragazzino magari tanti aspetti che poi magari ti possono far materializzare il sogno. Perché molte volte io posso anche immaginarmi tante belle cose, però poi ci devo mettere del mio, nel senso che comunque sia ci devo tenere a realizzare quel sogno. Quindi vai a curare magari particolari dettagli fin dal ragazzino, perché è vero che tanti miei coetanei, anche loro magari sognavano un domani di poter realizzare il sogno di diventare un calciatore. Però ci sono anche degli aspetti dove magari, cosa ti posso dire, ti parlo della mia esperienza personale, magari a 14-15 anni, invece di stare fuori fino alle 2, alle 3 a fare baldoria con i tuoi amici, magari rientravi alle 11 la sera a casa, e magari la mattina presto ti facevi svegliare dai tuoi genitori e magari ti andava a fare degli allenamenti senza sapere che un domani magari questo ti poteva, tra virgolette, consentire di diventare calciatore, non lo so. Però comunque sia, ho cercato di incanalarmi per quella strada. Poi che sia stato questo o sia stato qualcos'altro a far sì che realizzassi il sogno di diventare un calciatore, questo non te lo so dire. Però sicuramente qualcosa di mio ci ho messo, perché niente nella vita arriva per caso, niente nella vita arriva magari senza sacrifici. Quindi penso che alla fine questo magari anche in minima parte, questo mio modo di comportarsi magari abbia inciso anche a realizzare questo sogno. La tua esperienza in Serie A è legata ad una squadra, ad una città, a delle persone che sono molto care e molto vicine a Montevarchi, ovvero Empoli. Che tipo di esperienza è stata la tua ad Empoli nella massima serie, oltre al fatto ovviamente di avere realizzato il sogno di bambino da attaccare le figurine degli altri ad attaccare la propria sull'album? Ma che ti dico, la ciliegina sulla torta è proprio qualcosa di incredibile, perché poi è una soddisfazione immensa toccare la massima serie, perché vedi tutti i tuoi sacrifici, tutti i tuoi impegni che vengono ripagati nel partecipare nel massimo campionato, che è quello della Serie A. Prima abbiamo toccato un punto importante, che è quello lì, quanto incide la testa a poter raggiungere determinati obiettivi. Ecco, io per dirti, ho raggiunto l'obiettivo di arrivare nel massimo campionato, che è la Serie A, e poi comunque sia, diciamo così, passatemi il termine, tra virgolette, non sono stato capace di sapermela tenere stretta. Perché? Perché magari dentro di me c'era sempre la voglia di voler giocare titolare e di conseguenza di non capire l'importanza di dovere in quel momento e avere magari quel pizzico di pazienza in più, di serenità in più, per saper aspettare anche i momenti giusti, i momenti propizi, per poi magari poterti togliere delle ulteriori soddisfazioni. E questa è stata un pochino la cosa che mi ha penalizzato. È proprio per questo motivo qua, dopo 4 mesi, diciamo, di permanenza in Serie A con l'Empoli, con l'allora allenatore Luciano Spalletti, ahimè, decisi di andare via, proprio per il fatto di non accettare di stare in panchina, il fatto che comunque sia non giocavi da titolare, e quindi tutte queste dinamiche mi hanno un pochino autopenalizzato, e di conseguenza poi andai via da Empoli per andare per l'appunto a Terni in C1, quindi diciamo fare un salto all'indietro di 2 categorie. Ecco perché ho toccato il fattore testa. Magari se ero stato un pochino un po' più, diciamo, equilibrato, un po' più sereno e paziente, sicuramente in Serie A magari ci sarei stato molto molto di più. Però da un punto di vista personale, considerando appunto che hai cambiato tante squadre, hai esordito in differenti momenti, in differenti categorie, qual è stato l'esordio più emozionante? Ora, magari quello in Serie A con l'Empoli, o magari no, nell'arco proprio dall'inizio della tua carriera alla fine, l'esordio più emozionante? Diciamo ce ne sono diversi, perché anche quello che ho detto prima a Montevarchi, il fatto che comunque sia ti dà l'opportunità di poter arrivare tra professionisti, e comunque sia un aspetto molto molto emozionante e molto molto importante per le sorti della tua carriera. Quello di arrivare comunque sia a militare in Serie A è altrettanto emozionante, perché hai raggiunto, diciamo, la cima della montagna. E poi magari tanti altri aspetti emozionanti possono essere stati magari le varie vittorie dei campionati conquistate, quindi diciamo che di emozioni ce ne sono tante e varie. Però tengo a precisare queste due: Montevarchi, che mi ha dato la possibilità, come ho detto prima, di poter iniziare la carriera tra professionisti, e Empoli, di avermi dato la possibilità di poter militare nel campionato di Serie A. Appunto, viaggiando insieme a te nella tua carriera variegata, come diceva prima Julian, variegata anche da un punto di vista geografico, hai militato in squadre a Sud Italia, Centro Italia, Nord Italia, categorie dalla Serie A alla C2, insomma ne hai viste di tutti i colori. Ma come cambia, se cambia, il calcio, non inteso ovviamente nelle regole che sono quelle, però l'approccio delle persone, magari la organizzazione delle società? Cosa c'è secondo te che distingue certi tipi di società rispetto ad altre? La differenza sta secondo me in un fattore. Al sud, diciamo, che viene vissuta con fin troppo calore. Perché ti dico questo? Perché comunque sia, quando le cose vanno come devono andare, la gente comunque sia ti incita, ti acclama. Quando le cose prendono una piega diversa, che magari si può attraversare momenti veramente, ma veramente difficili, i comportamenti e gli atteggiamenti, diciamo, che sono molto molto esasperati. Perché ti posso dire che al sud, in un momento in cui con il Catanzaro, per dire, si andava male, e poi anche lì c'è stata di mezzo una retrocessione, in alcune circostanze non potevi uscire nemmeno di casa, quindi ti dovevi chiudere in casa quasi come se eri un delinquente, e di conseguenza guai a mettere piede fuori. Quindi diciamo che queste situazioni molto molto esasperate non fanno sicuramente bene al calcio, anzi sono quegli aspetti che molte volte fanno allontanare poi la gente dal calcio, soprattutto magari anche gli stessi bambini, perché quando c'è di mezzo una retrocessione, come ho detto prima, i primi ad essere penalizzati sono sicuramente gli addetti ai lavori, anche perché tutti quanti noi vorremmo sempre gioire, tutti quanti noi vorremmo sempre magari vincere campionati, però si sa che ne vince uno solo, quindi nel vincere magari un campionato ci vogliono tante situazioni che si devono legare tra di loro per far sì che poi magari dai delle grandi gioie, delle grandi soddisfazioni ai tifosi e alla società in primis, che comunque sia investe in maniera importante in una squadra. E ti ripeto, a Catanzaro, quando c'è stata la retrocessione, una squadra veramente costruita da giocatori importanti, Benny Carbone, Cammarata, un certo Leon, Miceli, Vicari, Dal Canto, Bonomi, giocatori che per l'appunto avevano militato per diversi anni in Serie A e in Serie B, eppure alla fine c'è stata di mezzo la retrocessione. Quindi non è mai detto che, nonostante in una squadra ci possano essere giocatori magari importanti che hanno comunque sia militato per tanti anni in Serie A e Serie B, si possa vincere un campionato. E molte volte può vincere un campionato anche una squadra normalissima, che però magari ha trovato un certo equilibrio, una certa alchimia, ha trovato una certa sintonia e che gli ha permesso magari di poter raggiungere un obiettivo importante. Quando sento storie del genere mi viene in mente sempre una domanda da farti come calciatore. C'era una situazione come quella, come presumibilmente hai vissuto a Catanzaro, anche apparentemente pericolosa. Te come calciatore con i tuoi compagni devi scendere in campo e senti la pressione di dover fare il risultato e molto spesso non ci riesci. Come si sente un giocatore in quel momento, ma soprattutto dove trovi le motivazioni quando devi fare il risultato, perché comunque hai paura che le conseguenze siano anche ben più complesse rispetto a una critica oppure un bu? Sai che quello è il tuo lavoro. In primis la cosa importante è questa, che comunque sia per te il tuo lavoro, e nel tuo lavoro cerchi di dare sempre il meglio e il massimo, nonostante magari ci sono delle avversità, ci sono delle situazioni sfavorevoli. Quindi diciamo che quello che ti fa andare avanti è proprio questo, è il rispetto, è la serietà che hai verso te stesso, che hai verso il tuo lavoro, che hai verso comunque sia una società che ti ha dato la possibilità, l'opportunità magari di poter fare insieme a lei un percorso. Quindi diciamo che sono queste le cose che ti fanno andare avanti, ti danno comunque sia modo di lottare anche tra virgolette contro quelle situazioni difficili, che poi comunque sia magari tutto questo possa anche non bastare, l'importante è che te in cuor tuo sei sereno di aver dato tutto in quel momento, anche se magari non è bastato, però ti senti a posto con te stesso, ti senti sereno con te stesso. Poi ripeto, molte volte nel calcio gli episodi possono anche fare la differenza, sia in senso positivo che in senso negativo, quindi molte volte ci sono dinamiche e situazioni che non riesci a spiegarti, però le devi sapere accettare, perché ripeto, non sempre magari si può vincere, e quindi devi essere in grado anche di saper accettare magari la sconfitta, di saper accettare a malincuore anche una retrocessione, ripeto, perché comunque sia una retrocessione è sempre un qualcosa che ti segna, e ti segna tantissimo, come ti dà gioia la vittoria di un campionato, ti dà tanta delusione anche il fatto magari di dover retrocedere. Sono situazioni della vita che devi essere intelligente, come ho detto prima, a saper accettare, e comunque sia prendere magari tutte quelle situazioni positive per far sì che magari in futuro le cose possano andare in maniera diversa. Torniamo agli anni in cui sei stato a Montevarchi, e spaziamo sia negli anni in cui eri calciatore che in quelli in cui sei stato allenatore. Hai vinto, come abbiamo già detto, il campionato sia in un'occasione che nell'altra. Ma in quale delle due occasioni per te è stato più significativo vincere un campionato a Montevarchi? Oppure magari è stato ugualmente bello? Sono due figure completamente diverse. Vincere da calciatore è una cosa, perché comunque sia te fa parte di un collettivo, di un gruppo, e quindi diciamo che cerchi di dare il tuo contributo, non hai grandissime responsabilità. Mentre da allenatore la cosa è totalmente diversa, perché comunque sia diciamo che sei te il primo responsabile del percorso che una squadra deve fare, quindi sei te colui che dà alla squadra le indicazioni, sei te colui che dà alla squadra i concetti che poi magari la squadra deve sviluppare. Quindi vincerlo da allenatore ti porta sicuramente quel qualcosa in più, perché ripeto, sei al timone, sei al comando di un gruppo, di una squadra, dove devi essere bravo a farli coesistere insieme attraverso le indicazioni, i concetti che tu gli dai, magari poi cercare di arrivare a raggiungere un obiettivo importante che è la vittoria di un campionato. Quindi penso che vincere un campionato o dei campionati da allenatore è davvero gratificante, perché ciò significa che il lavoro che hai svolto con i tuoi giocatori è un lavoro importante, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista sportivo, perché poi è normale che ci devono essere sì i valori umani e sì i valori sportivi per poter arrivare comunque sia al raggiungimento di un obiettivo così importante come la vittoria del campionato. Benissimo Antonio, siamo quasi alla conclusione della nostra chiacchierata, quindi diciamo che ti toccano due domande classiche che abbiamo fatto sempre a tutti gli ex calciatori che sono venuti qui. La prima te la faccio io e riguarda il tuo gol più bello o anche il tuo momento più bello della carriera singolo, però io direi più, magari più interessante che ci racconti il gol che è rimasto più scolpito nella tua mente nell'arco di tutta la tua carriera da calciatore. Che ti dico, ce ne sono tanti, diversi e svariati, ognuno con diverse emozioni, con diverse storie. Penso che l'1-0 di Baracca Lugo per me è un gol significativo, anche perché comunque sia aver sbloccato il risultato ci consentiva poi magari l'accesso comunque sia alla C1, quindi quello penso che sia uno dei gol più importanti della mia carriera, come lo è anche quello nella finale playoff Ternana-Nocerina, dove nel secondo tempo supplementare sbloccai la partita e per l'appunto vincemmo quella partita 1-0. Consentì alla Ternana di poter andare in Serie B insieme a tutti i miei compagni. In quell'annata lì, per l'appunto, come allenatore c'era un certo Gigi Del Neri. Quindi diciamo che ce ne sono diversi, però penso che questi due hanno un qualcosa di meraviglioso dentro di me. L'altra domanda invece è un grande classico agli ex calciatori o allenatori, e te in questo caso sai entrambe le cose, è se ci sono nelle tue abitudini delle scaramanzie o una scaramanzia particolare prima di una partita, prima magari di una partita importante, oppure se non ce ne sono, quali sono le più bizzarre che ti è capitato di vedere? Sinceramente alla fine non sono una persona superstiziosa, scaramantica. Cerchi comunque sia di affidarti a tutto il lavoro settimanale che hai fatto, che hai svolto, come lo hai svolto, e alla fine cerchi magari di poter ottenere il meglio e il massimo dalla prestazione, sia nel caso in cui sei un giocatore o sia nel caso in cui sei un allenatore. Cerchi comunque sia di far sì che la tua squadra, dal punto di vista magari della prestazione, fornisca sempre una prestazione importante. Di bizzarre sinceramente non me ne vengono in mente, perché magari in questo momento qua, facendo mente locale, non mi vengono in mente situazioni particolari. Ognuno vive, diciamo, il momento, l'attimo prima della partita a modo suo, quindi magari per me può essere qualcosa di bizzarro, per colui che la fa magari è qualcosa di normale, quindi non posso dirti che magari agire in un modo o l'agire in un altro, per me magari sì, può essere bizzarro, magari per la persona che lo fa è una cosa talmente normalissima e continua a farlo. Bene Antonio, siamo ormai davvero giunti al termine di questa puntata. Io ti ringrazio infinitamente di aver partecipato alla nostra trasmissione Il Volo dell'Aquila. Ringrazio il mio compagno di volo alla ricerca della Montevarchinità, ovvero Julian Carax. Io ringrazio e saluto anche il nostro regista di stasera, che era Mel Gibson. E Antonio, grazie anche da parte mia, per me, ma penso anche per Fumino, è stato un onore averti qui. Alla fine ti abbiamo tifato per tanto tempo, sia come giocatore, abbiamo esultato per il primo campionato che abbiamo vinto dalla ripartenza del Montevarchi, dove te eri in panchina, quindi insomma per la nostra trasmissione, per noi, mi sento di dire che è un ottimo punto di arrivo averti avuto come ospite, veramente. Io ringrazio voi, perché comunque sia è sempre bello parlare del Montevarchi, e io posso augurare al Montevarchi le più belle vittorie, le più belle conquiste, anche perché se lo merita, e spero che comunque sia negli anni a venire ne arrivano tantissime di gioia e soddisfazione. Bene, noi ricambiamo questo con l'augurio che ti facciamo per la tua futura carriera di allenatore, augurandoci che ti porti tante soddisfazioni. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito anche in questo podcast e ringraziamo per ultimo, ma non perché sia l'ultimo, il nostro santo subito. Sì. Stefano Neri per la concessione gentile degli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi, dove ovviamente registriamo i nostri podcast. Grazie e alla prossima puntata con Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Tre domande: qual è stato lo stadio più bello in cui hai giocato? Te sei un classico esempio di giocatore che ha militato nelle giovanili di una grande squadra, ma che è arrivato sì in Serie A, ma non in quella squadra, perché i giocatori delle primavere mai o difficilmente giocano in prima squadra. Probabilmente quelli che hanno vinto dell'Inter il campionato, nessuno giocherà nell'Inter. E la terza domanda è: che cosa significa essere parte dell'associazione calciatori, che è un club esclusivissimo? Che significa farne parte? Però quando sei diventato professionista di calcio, che sei iscritto, poi sei diventato un iscritto all'associazione calciatori, ci hanno raccontato e vi danno l'album delle figurine già pronto, bello e fatto, insomma, che effetto ti ha fatto ad esempio questa cosa qua? È un effetto bellissimo, perché comunque sia fino a poco tempo fa eri te che magari andavi in edicola a comprare l'album ad attaccare le figurine, e poi magari ad un certo punto della tua vita ti viene regalato questo album con le figurine e una di queste figurine ci siete. Poi la cosa che si è scoperto noi è che a voi calciatori ve le danno tutte insieme. Sì, sì. Quindi non c'è però l'emozione di aprire la busta e trovare te. No, però mi sono trovato. Però al di là del fatto che ce le danno tutte insieme, ma vedere proprio te, la tua immagine su quella figurina, ti viene da sorridere tantissimo. Perché? Perché ritorni indietro a quando eri bambino e dentro io dici: ma è possibile che ora su una di queste figurine ci sono io? E questo penso che sia qualcosa, non so, di magico, di incredibile, di fantastico. Poi comunque sia hai la possibilità, eventualmente, se uno si forma una famiglia, di far rivedere magari certe cose così belle anche ai tuoi figli. Ma tipo, c'avete delle assemblee, vi incontrate o giocatori, tra giocatori, non lo so. No, più che altro diciamo che l'Associazione Italiana Calciatori è un'associazione dove cerca di tutelarti, ed eventualmente in situazioni magari particolari cerca di sostenerti e di aiutarti magari eventualmente a poter risolvere quelle problematiche che magari sono capitate in quella circostanza, oppure magari se fa parte, diciamo, di una società dove questa società non rispetta magari gli impegni, comunque sia loro cercano di tutelarti e sostenere. Non è che diciamo ti risolvono il problema a 360 gradi, però cercano comunque sia di darti le indicazioni per poter affrontare quella situazione con più serenità. Però ovviamente tipo te, quando poi smetti di giocare, non sei più associato all'associazione calciatori? Io diciamo che ora Damiano Tommasi, che è il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, anche a noi ex calciatori ci ha dato la possibilità di poterne far parte, e quindi questo a noi ci gratifica tanto, perché ha voluto, comunque sia proprio lui in prima persona, prestare attenzione anche agli ex calciatori per far sì che comunque sia vengano aiutati anche nel percorso dopo calciatore, perché si sa che in tante circostanze, in tante situazioni, una volta che si smette di giocare si possono trovare e incontrare delle difficoltà, sia dal punto di vista vita normale, sia dal punto di vista lavorativo. Quindi loro cercano comunque sia di creare proprio degli incontri dove magari ti possono dare modo di fare dei corsi come segretario, oppure dei corsi come imprenditore, per dire magari il saper gestire una scuola calcio, saper gestire delle strutture, dei corsi di formazione, sì, tipo si fa. E quindi questo con dei docenti capaci, preparati, dove ti danno poi modo a te di poter studiare, approfondire il tutto, ed eventualmente una volta che ti senti poi pronto e preparato, prendere in mano magari la strada a te più idonea. A proposito di calciatori, di assistenza, a dire anche il tuo caso, te t'ho fatto la primavera in una società di Serie A, Serie A, Serie B, no, Napoli comunque. Era il Napoli, era in Napoli di Serie A. Poi ti dico perché era più difficile esordire a quei tempi. Ecco, ma appunto ci sono, cioè questo ci è già stato detto in altre puntate, praticamente il 90-95% dei ragazzi che fanno un percorso giovanile in una società di Serie A, che poi effettivamente quella società tiene per fargli giocare nella sua prima squadra, e magari preferisce anche a parità di tecnica, ma magari anche più bravi giovani che sono dentro, però preferisce e andarsi a comprare lo straniero di qua o il nome grosso di là. Ma secondo te come mai, alla fine non fa bene né ai giovani né al calcio che ci sia tutta questa difficoltà poi a approdare nelle prime squadre? Beh, per quanto riguarda la mia esperienza, quando giocavo nella primavera del Napoli, ho avuto il piacere di giocare con un certo Fabio Cannavaro, con un certo Pagotto, che è stato anche portiere del Milan. Quali erano le difficoltà? Le difficoltà è che facevi parte di un contesto, e ti parlo del mio contesto, dove c'era Maradona, Careca, Zola. Era un po' difficile trovare posto. esordire era un pochino complicato. Anche lì c'è stata una soddisfazione, che è stata quella nella partita Napoli-Roma, di poter andare in panchina con un certo allenatore che è Ranieri, che ha vinto per l'appunto un campionato storico, la Premier League, con il Leicester. Sì. Prima era un pochino più difficile poter esordire in Serie A, anche perché dovevi fare magari un percorso magari dove dovevi maturare nei campionati inferiori, che poteva essere magari una C2, una C1, una Serie B. Prima di poter approdare in Serie A, comunque sia, dovevi essere pronto. Potevi avere anche magari delle capacità, delle qualità, però prima dovevi dimostrare di poter far parte di un contesto di Serie A. Oggi magari viene vista in maniera diversa, in che senso? Che ai giovani, come vedono che hanno magari delle capacità, delle qualità, e li inseriscono subito magari nel contesto prima squadra, e magari le possibilità sicuramente sono molto più alte rispetto ai miei tempi. E poi te mi facevi la domanda del fatto come mai magari tante società vanno a prendere magari giocatori stranieri invece di investire sui giovani italiani. Ci possono essere magari dietro, non lo so, delle dinamiche, situazioni e degli interessi dietro. e magari si preferisce investire magari su un giocatore straniero perché magari il fatto che ci sia un giocatore straniero all'interno della squadra per il tifoso, per il pubblico, sì, la più suggestione fa vendere qualche maglia in più, porta suggestione e via discorrendo, che magari investire sul ragazzino della primavera. E quindi diciamo che sono dinamiche, sono situazioni del calcio che sicuramente non posso né cambiarle io né cambiarle voi. Sono, ripeto, dinamiche che a trovare delle spiegazioni resta molto difficile. Sicuramente se si riesce comunque sia a investire molto di più sul settore giovanile, si possono poi ottenere dei risultati veramente interessanti. Oggi come oggi un altro ostacolo che penalizza il settore giovanile è che si vuole tutto e subito, e invece bisogna avere, soprattutto con i giovani, la pazienza di saperli aspettare, di farli crescere, di farli maturare, per far sì che poi magari ti portano ad ottenere dei risultati anche interessanti, risultati anche importanti, e dai magari la possibilità a diversi ragazzi di poter coronare un sogno. Però ripeto, oggi la cosa penalizzante è proprio questa mancanza di pazienza. Te che tu ne hai girati tanti affassi dal fatto che sei stato in panchina in quel Napoli-Roma, insomma io immagino che scendere, entrare in campo, alzare gli occhi e c'è il San Paolo, cioè, o c'è il Marassi, o c'è San Siro, che ne so, boh, fra tutta la tua carriera, qual è stato lo stadio che più ti ha colpito, per come è strutturato, per come magari i tifosi riuscivi a sentire anche gli avversari, che magari c'erano e quindi vi mettevano più in soggezione? Ma diciamo che il San Paolo fa sempre un certo effetto, anche perché poi diciamo che ho avuto la fortuna, anche se sono stato in panchina, però di andare in panchina in una partita che è Napoli-Roma, il derby del sud, viene definito il derby del sud. Quindi cosa ti dico? Che alzavi gli occhi e ti vedevi 70.000 persone. Lascio pensare a voi l'effetto che ti può fare. E in quella partita lì, se non erro, il primo tempo finì 2-0 per la Roma, e poi nel secondo tempo il risultato fu completamente diverso, perché vincemmo la partita 3-2. Lascia a voi. Tu hai visto tutto, dalla rabbia di 70.000 persone ai delirio. Hai anche vinto il derby del sud. Magari esatto. Non hai giocato nemmeno un minuto, non ho giocato nemmeno un minuto, però lascia a voi immaginare cosa significa terminare il primo tempo 0-2 e finire poi magari i 90 minuti dove vinci la partita 3-2. Quindi delirio totale. È un altro stadio che mi ha colpito tanto, che per me è veramente bellissimo, è Marassi, Genoa. Ci ho giocato sia con il Siena in Serie B quando la Sampdoria era in Serie B, e ci ho giocato sia col Catanzaro quando Genoa era in Serie B. È qualcosa di un'atmosfera incredibile, perché a parte che non c'è la pista, quindi ti vedi questi tifosi che avvolgono completamente il manto erboso, anche perché poi sia le curve che le tribune che la gradinata hanno questo senso di andare in profondità, e quindi maggiormente vedi questi tifosi che quasi arrivano in campo, no? Ti senti addosso? Sì, te le senti completamente addosso, e l'atmosfera è un'atmosfera che ha dell'incredibile. Ma con Maradona tipo diciamo uomo ad allenarti? Senti, della vicina. Mi ci sono allenato e ti dico anche che quando ero in primavera a Napoli gli chiesi di potermi regalare un paio di scarpini e me ne regalò 5. Porca. Quindi per dirti la persona che era, una persona molto molto generosa, al di là poi delle sue vicissitudini personali, però potersi sia allenare che vedere gli allenamenti del Napoli magari seduto lì nella tribunetta, nella gradinata, qualcosa che ti rimarrà sempre sempre impresso nella mente, ti porterai sempre dietro con te, perché mi immagino una cosa, cioè ti alleni con Maradona, Maradona ti passa il pallone, io lo tocco questo pallone, questo pallone no, proprio io lo tocco, lo porto via. Lo tappo, perché cioè, Maradona, le sensazioni, le emozioni di poterti allenare con un campione della sua portata è inimmaginabile, ma poi non solo Maradona, cioè quel poterti allenare con quei giocatori lì, cioè ti parlo di giocatori come Careca, Alemão, Crippa, De Napoli, Ferrara, Galli, è tanta roba per un giovane. Scherziamo, delle squadre leggendarie della storia di calcio, sì, italiano. Perché poi comunque sia ti regala talmente delle emozioni incredibili che, ripeto, magari non ti immaginavi neanche, no? Perché diciamo fino a un anno prima magari facevi parte della primavera del Taranto, perché tanti sono di Taranto. L'anno successivo ti compra il Napoli. Ti compra il Napoli, sì, sapendo che comunque sia vai a fare la primavera con il Napoli, ma mai nella tua testa potevi pensare addirittura di poter fare un ritiro con la prima squadra del Napoli. E ho avuto la gioia, la soddisfazione di poter fare due ritiri con la prima squadra del Napoli. Chissà che organizzazione, che tipo di... Sì, posso solo dirti che c'è dietro un'organizzazione impeccabile. Dove... Ho toccato poi subito il professionismo indirettamente, tu l'hai capito subito, il professionismo massimo, cioè sì. Per i ragazzi no, sì. Alla fine e ti va a fare il tiro in Napoli. C'è dietro tutto un'organizzazione impeccabile, partendo da magazzinieri, massaggiatori, addetti ai lavori, dove tutto è perfetto, tutto è perfetto. Non è vero quando si dice la C, la B è uguale all'A. Quando arrivi in A ti accorgi che è completamente e totalmente un calcio tutto diverso, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione. Proprio nello strutturare tutto è completamente diverso. Te arrivi allo stadio, per dire, prima di una partita arriva allo stadio e vedi che c'è già tutto a posto come deve essere, oppure magari anche durante la settimana arrivi agli allenamenti ed è tutto ben organizzato, cosa che magari in Cina non è così. Sì, c'è la stessa organizzazione, per l'amor di Dio, però è un qualcosa di diverso, perché in Serie A magari ci sono 4-5 magazzinieri, ci sono 3-4 massaggiatori, ci sono 2-3 fisioterapisti, in C c'è un massaggiatore, c'è 1-2 magazzinieri. È normale che nella massima serie l'organizzazione sia veramente qualcosa di unico.